America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. A new possible investigation by the FBI into Hillary Clinton's emails are just as... Beh, come potete immaginare, ieri mattina nei programmi della domenica non si è parlato che dell'FBI, dell'annuncio a sorpresa, la sorpresa d'ottobre, la scoperta di nuove email che potrebbero imbarazzare Hillary Clinton, ma soprattutto si è parlato del fatto che tutto è avvolto da un'ombra di incertezza. C'è un'incognita, naturalmente, tuttavia credo che da questa mattina le conseguenze di questa rivelazione saranno forse meno devastanti di quello che potevano sembrare nel fine settimana per Hillary Clinton. È vero che Trump si è rafforzato nei sondaggi e Hillary è scesa al di sotto dell'80% nella probabilità di vittoria con Trump, però Hillary resta in testa negli stati chiave, resta con un margine comodo di circa 313-314 voti elettorali e dunque è difficile che l'astrusa lettera dell'FBI al Congresso, che di fatto non dice nulla di concreto, possa diventare un ostacolo decisivo alla vittoria di Hillary Clinton. Questo è quello che si pensa oggi. Veniamo all'altra cronaca. Hillary ha passato il fine settimana ad attaccare il capo dell'FBI James Comey per l'inspiegabile decisione, secondo lei, di annunciare al mondo queste nuove email scoperte nell'inchiesta parallela su Anthony Weiner. Sentiamo Hillary. It's pretty strange to put something like that out with such little information right before an election. Ecco, ha parlato ieri a Daytona Beach in Florida. La Florida è uno stato chiave, dunque tutta la concentrazione della candidata democratica è lì, e Hillary dice: questa decisione è piuttosto strana. È strano il fatto di comunicare una scelta del genere senza dare alcun dettaglio in merito, così come è incomprensibile la scelta di farlo appena prima delle elezioni. Ecco, è strano il comportamento di questo signor Comey, è strano. Da parte di Trump invece ci sono rivendicazioni di giustizia che sta per essere fatta. Ma dietro la polemica così superficiale del giorno per giorno, devo dire che c'è anche la percezione di una crisi istituzionale senza precedenti in America, perché con questo intervento dell'FBI di fatto facciamo entrare il reality show di queste incredibili elezioni americane alla sua miscela esplosiva finale, cioè email, conflitti di interesse, sesso, perché ve lo ricordo, Anthony Weiner è sotto inchiesta dell'FBI per aver fatto sexting, quindi messaggi, diciamo, a sfondo sessuale con una quindicenne, poi menzogne, abusi di potere, insomma tutto si intreccia seguendo però un unico filo conduttore, quello dell'incertezza. Incertezza sulle ragioni dell'intervento dell'FBI a 10 giorni dall'appuntamento alle urne, incertezza sull'esistenza di mail che possono davvero inchiodare Hillary Clinton, incertezza dei mercati, perché venerdì i mercati alla notizia delle difficoltà possibili di Hillary Clinton sono caduti. Io credo che oggi si riprenderanno, anche perché avremo notizia fra poco di un affare molto importante, la General Electric è vicina a un accordo da circa 30 miliardi di dollari per combinare le sue attività di oil and gas, attività energetiche, con Baker Hughes. Perché aggiungo questa notizia? Beh, perché alla fine l'America va avanti, l'economia va avanti, le cose si fanno nonostante la confusione sul fronte della politica. Ma sentiamo Donald Trump, perché anche lui ha avuto qualcosa da dire. This was a grave miscarriage of justice and it is everybody's hope that it is about to be corrected. Ecco, Donald Trump ha parlato dal New Hampshire, dice si è trattato di un vero e proprio errore giudiziario, si riferisce all'errore del 5 di luglio quando l'FBI aveva archiviato la pratica email, e dice Trump è speranza oggi di tutti che possa essere questo errore finalmente corretto. Trump sta cavalcando naturalmente questa nuova opportunità che gli si è offerta così all'improvviso. Ecco, per il grande pubblico resta però un mistero. Si interroga in particolare su come il direttore dell'FBI, se davvero non conosceva il contenuto di queste email, ma perché non ha atteso l'esito dell'inchiesta prima di gettare barili di benzina in uno scenario politico già incandescente? Ecco, io credo che forse per come abbia prevalso, come dire, un po' la difesa dell'integrità, dell'autonomia del suo bureau, dell'FBI. Ci sono i poteri separati in America e quindi in qualche modo come ha voluto tirare dritto per tutelare la separazione dei poteri ex post. Però c'è un punto che l'autonomia istituzionale garantita dall'America chiede chiede in cambio responsabilità al servizio del paese. E dunque che la sacrosanta separazione dei poteri in America porti poi a irresponsabilità, perché la decisione di Comey, secondo me almeno, è responsabile, e al disservizio per il paese, beh, devo dire in generale, la dice lunga sulla crisi delle democrazie occidentali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa cosa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. E dunque eccoci alla canzone del giorno. Che scegliere? Beh, visto che c'è questa incertezza un po' dominante, beh, dei DY, We Don't Know. How you feeling, babe? You see my little blue. All I see is green and the sky's new. All week long, 7 Fridays, we don't give a fuck. They say crime pays. At least we're still feeling good after last night. Let my eyes close and awoke in a past life. I'm just trying to get back to then and never come back again. When the moon shines bright and the riots start, that's when everything seems so real. Then they build it up just to tear it down and ask us how it feels. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.